C'è qualcuno di un'altra dimensione qui tra di noi? C'è qualcuno tra di noi? Sì, ragazzi. Come ti chiami? Zivago, dottor Zivago. Shh, stupido! Vuoi comunicarci qualcosa? Sì, voglio comunicare qualcosa. Aspetta, fermi tutti, fermi, fermo anche lo spirito, fermi. Ragazzi, sono le 15:30, comincia la diretta in combat fra un po'. Che facciamo? Salutiamo lo spirito, basta, continuiamo un'altra volta la seduta spiritica. Va bene, allora salutiamo a tutta lei, Zivago! Festival della letteratura sociale, in onda ogni domenica dalle 15:30, con la diretta Poiuit, lettere contrarie, gombat.noblogs.org, ridimensiona l'importanza. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy T-Mike. You see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Wombat per la nuova puntata di Poi You Eat, lettere contrarie. Benvenuti a tutte e tutti, siamo qui connessi, abbiamo tanti ospiti oggi, diverse voci, e quindi vado veloce con questa introduzione, tanto ormai lo sapete che io sono Mario e questa è la trasmissione di letteratura dedicata in particolare a quella letteratura portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista nella quale viviamo. Mettiamo qui ogni domenica a confronto e all'ascolto romanzi, saggi, poesie, riviste, tutte accomunate dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere liberamente condivisa e sempre accessibile a tutti. Allora, prima di tutto vi ricordo come potete interagire con noi durante la diretta, ovvero sul nostro pad, il cui link si trova nella prima pagina del sito wombat.noblogs.org. Cliccando su diretta Wombat potete scrivere a me e ai nostri ospiti, oppure attraverso la casella di posta postawombat@insiberia.net, che ancora non ho aperto ma fra pochissimo lo farò. Potete quindi interagire con noi almeno con questi due modi. Had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey. Bene, prima di tutto, se tutto sta funzionando, fra le tre voci, sono tre voci oltre la mia che sentirete oggi, inizio con la prima, che è la stessa voce che avete sentito anche come ospite nella scorsa puntata, ovvero quella del poeta Edoardo Olmi. Edoardo, sei con noi? Ci senti? Wow, iniziamo alla grande, riproviamo. Edoardo, ci senti? Eccomi, scusatemi. Buon pomeriggio, ciao Mario, ciao Wombat, ben ritrovati a tutti quanti. Ottimo, funziona tutto. Bentornato Edoardo, e allora insieme a te al volo, prima poi di sentirne direttamente le voci, vorrei introdurre gli altri due ospiti di oggi. Sono una poetessa e un poeta, parliamo di Barbara Pumeusel e Alessandro Scarpellini. Sono narratori e poeti, entrambi in uscita per Edizioni Ensemble nella collana Affluenti da te diretta, di cui ci hai parlato la scorsa puntata, con due libri, sono L'amore segreto di Alessandro Scarpellini e Un confine in comune di Barbara Pumeusel. Edoardo, allora, la loro biografia è talmente ricca che non saprei nemmeno da dove iniziare io, e allora ti lascerei a te l'onore. Beh sì, decisamente sono due autori che hanno un percorso molto ampio già, e quindi insomma anche una biografia poetica, artistica molto interessante e all'attivo, e siamo molto contenti di averli appunto a bordo, diciamo così, di questo progetto poetico ed editoriale che è Affluenti. I loro libri, come tu stesso dicevi, Mario, usciranno a breve, insomma prima possibile, appena la situazione ce lo permetterà, per la collana editoriale di Affluenti. Sono Un confine in comune di Barbara Pumeusel e L'amore segreto di Alessandro Scarpellini, e questi autori ve li presento brevemente, un po' appunto leggendovi qualcosa dalla loro biografia artistica. Barbara Pumeusel è nata in Austria nel 1959. Poetry Fellow della Fondazione Bogliasco, del Centro Studi Ligure di Genova, è membro della Compagnia delle Poete. Ha all'attivo pubblicazioni in riviste come Semicerchio di Firenze, The Massachusetts Review, la rivista Podium di Vienna, e antologie fra cui Migrations, Migrazioni, o Al confine del verso, che è un'antologia a cura di Mia Lecombe. Ha all'attivo anche vari riconoscimenti, fra i quali il premio Popoli in Cammino di Bologna, il Fiorino d'Argento di Firenze e il premio Pippi, che è un premio di letteratura per ragazzi di Casalecchio. Oltre che poetessa è anche traduttrice, e si occupa anche di scrive anche libri per l'infanzia, libri per bambini, e ne sono uscite all'incirca una quindicina, e ha pubblicato appunto varie raccolte di poesia, ne cito un paio, ad esempio In transitu, uscita con Arcipelago Itaca nel 2016, e la raccolta Prugni, uscita con Cosmo Iannone editore nel 2008. E per Edizioni Ensemble, appunto per la collana di Affluenti, quest'autunno, speriamo che da settembre appunto potremo già far uscire questo nuovo libro di Barbara, uscirà appunto, è in uscita per Affluenti Ensemble, la sua ultima opera poetica, ovvero Un confine in comune. Alessandro Scarpellini invece è nato a Pisa il 15 agosto del 1957. È scrittore ed educatore, e è all'attivo vari libri di poesia e narrativa, fra i quali Il segreto del fiume, Book Editore, Bologna 1990, I sassi caduti, Book Editore, Bologna 1993, Opus, con Bandecchi e Vivaldi di Pontederna nel 2001, L'astronave madre, uscita con Felice Editore, casa editrice di Pisa nel 2008, Passi diversi, uscita presso Chesbot di Firenze nel 2003, La casa del sorbo selvatico di Erickson Live nel 2013, che è un libro scritto con 40 bambini e bambine della scuola primaria Giromini di Marina di Carrara, e insieme alla maestra Barbara Pianadei. E altre sue opere sono Al tracente di Pisa, uscita con MDS Editore nel 2015 e con pitture di Enrico Fornaini, Cronaca di una battaglia, edizione del Comune di Pisa 1998 e Carmignani Editrice 2020, Vietato calpestare i sogni, sempre per Carmignani Editrice nel 2015, Desidera, sempre con Carmignani Editrice, e Le voci degli alberi, scritta e pubblicata con Carmignani ed insieme agli allievi del libro Laboratorio di scrittura dell'ortaggio di Vico Pisano. Quindi sono due autori, insomma, appunto, che hanno un percorso ampio già anche a livello editoriale alle spalle, e che appunto usciranno nei prossimi mesi con questi loro nuovi due libri per la collana di Affluenti con Edizioni Ensemble. E noi infatti, oltre che fargli alcune domande sul loro percorso poetico, è proprio da queste nuove pubblicazioni che chiederemo anche di sentire alcuni versi qua in anteprima di ciò che stanno per pubblicare. Beh, e intanto, se sono connessi con noi, gli farei subito un brevissimo saluto. Barbara, Alessandro, ci siete? Ci sentite? Ciao Mario, ciao Edo, buongiorno, buon pomeriggio, meglio a tutti, a tutte, e grazie per l'invito. Sono contenta di essere qui. Un buon pomeriggio a voi e contento di essere qua con voi. Perfetto, vi sentiamo benissimo, grazie a voi anzi per aver accettato questo nostro invito e per essere oggi con noi in diretta. Sentiremo le loro voci e i loro versi fra molto poco, prima però ritorniamo un secondo, qualche minuto, al vecchio gioco che abbiamo inaugurato dalla seconda puntata di questa serie di trasmissioni dedicate alla letteratura sociale, ovvero la scelta dei vostri libri preferiti. Abbiamo infatti iniziato a chiedere già dalla seconda puntata agli ascoltatori e alle ascoltatrici di mandarci una selezione dei loro 5 libri del cuore, quelli che magari li hanno più suggestionati o impressionati o colpiti o ispirati o insomma come vi pare, ma la scelta dei vostri 5 libri da consigliare qui sulle frequenze di Radio Wombat. Abbiamo chiesto questo. Invitiamo anche chi ci ascolta adesso, anche oggi siete in tanti e quindi invitiamo tutti quelli che sono in ascolto a farlo a loro volta. Potete mandarci ad esempio un messaggio sulla messaggeria del Wombat, il cui link sta sempre nella home, nella prima pagina del sito Wombat. Basta premere il bottoncione rosso e registrare la vostra lista. Fra quelle che ci sono arrivate negli scorsi giorni io ne manderei oggi 2 e poi ritorniamo subito qua in diretta assieme a Edoardo, Alessandro, Barbara e continuiamo a parlare di poesia. Quindi adesso 2 selezioni dei libri prediletti e fra pochi minuti di nuovo qui su PoiUit Lettere Contrarie. Buongiorno a tutti, sono Giacomo, ho 31 anni e ho i baffi come Freddie Mercury. A parte questo, sono un appassionato di lettura, leggo abbastanza anche se ultimamente non ho avuto molto tempo disponibile per farlo. In ogni caso, ho una classifica di 5 libri che sono tutti i miei libri preferiti, non c'è una top 3 o un preferito in assoluto, diciamo che un libro o mi piace o non mi piace. Questi 5 mi piacciono tutti abbastanza, diciamo pure parecchio. Allora, comincerei con L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, un libro che è ambientato nella Barcellona degli anni 40, un intreccio di personaggi molto affascinanti, enigmi e oscuri segreti che girano tutti attorno ad un libro e al suo autore molto misterioso, una storia davvero appassionante. 2, Mille splendidi soli di Khaled Hosseini, che è lo stesso autore di Il cacciatore di aquiloni, famigerato libro che ha venduto un sacco di copie. Questo secondo libro, Mille splendidi soli, è sempre un libro denuncia della situazione in Afghanistan negli anni 70, però mentre il primo era rivolto, quindi Il cacciatore di aquiloni, al mondo infantile, quindi alla situazione dei bambini, questo Mille splendidi soli è incentrato sulla figura della donna, quindi la condizione della donna nell'Afghanistan di questi anni 70, quindi in piena guerra. È un libro veramente anche questo appassionante, super introspettivo, in cui ti fa vivere in prima persona tutto quello che fa riferimento a quella situazione di guerra, di soprusi, di ingiustizie, eccetera eccetera, veramente molto bello. Siccome sono un appassionato di thriller o storie del terrore di questo genere, un altro libro che mi piace tantissimo è Dracula di Bram Stoker, famosissimo libro, quindi questo personaggio di invenzione ma che in realtà è un po' come dire il simbolo, no, di una parte oscura che può essere dentro ciascuno di noi e che però andando avanti nella storia si rivela avere un lato anche votato, diciamo così, all'amore, quindi anche romantico, anche melanconico, malinconico, molto affascinante anche questo tipo di personaggio. E quindi Il Dracula di Bram Stoker è un libro che ho amato tantissimo. A parte questo aspetto, anche per la tipologia di scrittura, inizialmente un po' come fosse un diario, no? Che Jonathan Harker tiene durante il suo viaggio in Transilvania, il primo viaggio, quando va a conoscere il conte, per il quale deve amministrare alcune proprietà a Londra. E la descrizione di questo viaggio è veramente molto appassionante perché tu ti immagini i luoghi, gli ambienti, i paesaggi, man mano che si addentra nella zona dei Carpazi, quindi questa zona molto selvaggia nel centro dell'Europa, quindi usanze che cambiano rispetto all'Inghilterra dalla quale proviene, quindi molto molto estetico anche come libro nelle descrizioni sia dei personaggi che delle ambientazioni. Altro libro è It di Stephen King, anche questo super famoso, quindi forse sarà un po' banale, ma mi piacciono le storie importanti, diciamo così. It è un libro meraviglioso, secondo me, perché a parte la questione della truculenta, quindi della storia, diciamo così, paurosa, dove c'è il mostro, dove c'è un mostro che minaccia i bambini o i cittadini di questa cittadina del Maine, dell'America orientale, Derry. Questa piccola cittadina, ma diciamo che l'aspetto più interessante dal mio punto di vista è proprio l'analisi di questi ragazzi, più o meno tutti della stessa età, che si ritrovano uniti da una sorta di eventi casuali che li porta a creare un legame molto forte, tanto che creeranno questo gruppo, il gruppo dei perdenti, perché appunto ognuno di loro ha una vita costellata da sconfitte, sofferenze, eccetera, eccetera. E queste loro sconfitte, queste loro apparentemente debolezze li porteranno invece a creare un gruppo molto forte che si troverà a combattere contro questa personificazione del male che è appunto Pennywise, il clown danzante, ovvero It. Quindi una storia che si va a esplorare un pochino i meandri della personalità di un ragazzo durante la crescita, le paure, le insicurezze e il legame molto forte dell'amicizia. Quindi molto bello, molto bello. Per concludere, Io uccido, cioè non è che per concludere io uccido, per concludere abbiamo il libro Io uccido di Giorgio Faletti. Uno dei primi libri che ho letto, meraviglioso a mio avviso, è un poliziesco doc in cui hai il serial killer che commette tutta una serie di delitti studiati con un rituale ben preciso e il poliziotto che deve scoprire chi e perché. E ti accompagna nella discesa lenta ma inesorabile verso la scoperta di questo personaggio incredibile che è l'assassino, in un modo veramente straordinario come solo Giorgio Faletti poteva fare, con una scrittura ricca di colpi di scena, appassionante, anche questa introspettiva. Molto, veramente molto, molto, molto bella. Ti accompagna dolcemente in uno baratro oscuro che è la mentalità, la psicologia dell'assassino, e tu alla fine ti trovi davanti a questo mosaico dell'orrore, ma veramente ben scritto. Bene, questi sono i 5, avrei potuto mettere anche, non lo so, Cent'anni di solitudine, Il maestro e Margherita, molti altri, ma mi è stato detto di metterne 5, quindi questa è la mia lista. Grazie, ciao a tutti. Ciao, sono Eva. Vi sto facendo questo vocale per dirvi la mia classifica dei libri preferiti, che però ne comprende solo due, perché ho scoperto la lettura molto tardi e ho sempre letto libri che in realtà non mi hanno mai coinvolto più di tanto. E invece ora forse sto trovando dei generi che mi piacciono, cioè almeno in questo momento della mia vita. Poi credo sia questo la lettura, scopri, cioè ti avvicini a dei generi che in quel momento ti chiappano. Allora, il primo è lo Zen e il tiro con l'arco di Eugen Herrigel. Lui è un professore di filosofia tedesco che scrive questo libro su come un occidentale si può avvicinare allo Zen. E quindi racconta di questo suo lungo tirocinio fatto con questo maestro. E mi è piaciuto molto perché mi ha illuminato su un elemento che è un po' un nodo mio, che sono le aspettative, cioè le aspettative che uno si pone nei confronti degli altri, aspettative nei confronti della vita. E il libro ti fa capire che veramente, come appunto nella filosofia orientale, sono le piccole cose, i piccoli gesti quelli che cambiano nel profondo, a lungo andare. Cioè c'è questa pratica del tiro con l'arco che è quasi estenuante. Devi riuscire proprio a captare quel piccolissimo movimento, che in realtà lo capti solo se cambi il punto di vista. Quindi noi occidentali siamo molto abituati al controllo, cioè noi genere umano in generale direi controllo, siamo poco abituati a lasciare andare. Questo libro appunto ti fa capire come, lasciando andare e quindi svuotandoti, riesci ad accogliere meglio. Quindi poi lui alla fine ce la fa a tirare con l'arco dove deve tirare. E quindi questo uno. Poi l'altro, che ho letto anche abbastanza ravvicinato, Donne che corrono coi lupi. Il nome dell'autrice lo devo leggere perché non me lo ricordo. Clarissa Pinkola Estes. Lei è una psicanalista, scrittrice, poetessa, antropologa statunitense, e questo libro l'ho trovato potentissimo. È un malloppo di non mi ricordo quante pagine, che ho fiammato credo in un paio di settimane. Mi aveva proprio preso tipo serie televisiva, però in realtà è tutt'altro che una serie, cioè una serie di racconti, nel senso favole, con quindi vari archetipi che lei utilizza per affrontare il discorso di quello che lei chiama donna selvaggia, quindi il femmineo e questo potenziale che è all'interno di ognuna di noi, che spesso non ascoltiamo, perché la donna selvaggia ci spinge a correre rischi, ci spinge ad addentrarsi nei boschi, ci spinge a seguire l'intuito, cosa che invece noi facciamo poco spesso, perché siamo sempre offuscate da altro, da banalmente anche, cioè, la normalità, la routine, quindi non ci avventuriamo spesso. Quindi questa è la mia classifica per ora. Se ci sono nuove entrate farò un altro vocale con più titoli. Grazie e ciao! E rieccoci in diretta su Poyu It, Lettere Contrarie. Che meraviglia, che belle queste classifiche dei libri degli ascoltatori di Radio Wombat. Io le trovo davvero davvero stupende, quindi grazie Giacomo, grazie Eva per questa vostra classifica, e ripeto l'invito a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a mandarci le loro, magari usando la messaggeria del Wombat. Il link sta nella prima pagina del sito wombat.noblogs.org, oppure per chi ha anche i nostri numeri della radio lo può fare direttamente, anche se qua in diretta non ve li diamo, no. Ma come annunciato prima, come abbiamo anche presentato assieme a Edoardo, è il momento di andare a dialogare di poesia assieme a Barbara ed Alessandro, Barbara Pumausel e Alessandro Scarpellini. Come però avevamo fatto anche la scorsa puntata, io, se siete tutti d'accordo, prima di parlare di poesia farei sentire un po' di poesia, e quindi darei prima di tutto voce al vostro canto e poi andiamo a parlarne assieme. Quindi vi inviterei a fare subito una prima lettura. Ad esempio, Alessandro, ci senti? Ci sei? Ci sono. Ci vuoi fare una lettura in anteprima qua in diretta alla radio? Certamente. Siamo allora tutti orecchi. Abbasso la base e via. Stranieri. Di linee che non hanno sequenze temporali. È l'SOS dei naufraghi. Ci senti sempre, Alessandro? Ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso. Scusate, ora sì. Vuoi ripartire? Non so cos'era successo. Riparto, sì. Sì. Scusate. Ho un problema. Non capisco. Ecco. Di linee che non hanno sequenze temporali e lo SOS dei naufraghi, dei dispersi nelle città che fanno delle stazioni rifugi e della povertà coltelli per uccidere, uccidersi. In cielo pozzanghere scrutano gli occhi del Creatore, di Allah e di Buddha, bisbigliano sirene di porti chiusi, che Dio forse non esiste, profughi di guerre e fame, vivono la libertà di perdersi e cercare approdi impossibili fra l'orina dei cani e l'ostilità degli abitanti di altri paesi che invecchiano di ricchezza e pensieri non risolti, fragili come un guscio di chiocciola, i sogni si mischiano al sangue nero della terra. E questa era Stranieri di Alessandro Scarpellini. Grazie, Alessandro. Inviterei anche Barbara a fare una prima lettura, se ci sente. Eccomi. Bene. E comincio con cioccolato, parola antica per rimanere nel continente. Dono di un dio azteco, il seme si è salvato, il popolo no, cioccolato, ossessione, ti penso, divoro il suono, le sillabe, sto male, mi assilla quel sapore che dice la pubblicità. Mentre divora gli spazi intorno e ancora il vecchio mondo ripete oro e le navi ingoiano l'oro come allora, Dio merce, siamo servi, pulimici, sudditi di una politica mercificante che fa crescere la cioccolata e l'oro anche sul corpo di chi lotta per un campo di fagioli e tutti noi gli annaffiamo la pelle, i peli, di fertilizzanti, di diserbanti, lo nutriamo di foglie, di coca, perché zappi e strappi e se non sai cosa è la solitudine, chiedi a una piantina di cacao, a una vecchia che da 50 anni mastica per poter tirare avanti, quanti chicchi, quanti, ed è Natale, amore, e di nuovo sfoglio il bianco, volantino del supermercato che ci dice cosa manca. Grazie Barbara anche, e beh, ascoltando già queste prime due poesie avete sicuramente capito bene perché abbiamo pensato di invitare loro come poeti alla trasmissione appunto di letteratura sociale, di questa trasmissione che vuole essere critica dei modi convenzionali di fare letteratura. Ma io prima di andare a dialogare con Edoardo e con Alessandro e Barbara abbiamo chiesto loro di proporci una canzone a testa che manderemo durante questa trasmissione. La prima io la manderei subito per poi ritornare subito qua in diretta e la prima l'ha scelta proprio Barbara. Ci vuoi dire quale canzone stiamo per trasmettere? Sì, la canzone si chiama Che corre il Rio, la cantante è una attivista, oltre a musicista, cantante anche, si chiama Carla Lara, e la canzone è un omaggio a Berta Cáceres, che era considerato dal popolo dei Lenca, una popolazione nativa dell'Honduras, la guardiana dei fiumi, la madre dei fiumi, è stata uccisa per aversi opposta alla costruzione della diga e comunque per il suo impegno. E ancora, questo è successo nel 2016, ancora i suoi assassini sono in libertà. E siamo ben contenti allora di trasmetterla. Maggior ragione che corra el Rio, Carla Lara. Via. E rieccoci subito di nuovo qua in diretta. Edoardo, sei con noi? Ci senti? Eccomi, ciao a tutti di nuovo. Allora, queste letture che abbiamo appena poco fa sentito e anche le altre che sentiremo più avanti nel corso della puntata, ricordiamo intanto che saranno tutte incluse nei prossimi libri in uscita con Affluenti all'interno della casa editrice Ensemble, sono quindi inediti, avete voi ascoltatori il piacere di sentirvele in grande anteprima, è giusto Ido, ho detto bene? Giustissimo, sono tutti i testi, tutte poesie che Barbara Mosele e Alessandro Scarellini hanno nei loro libri fino a, per adesso inediti, e che usciranno appunto a breve, prima possibile, per la collana di Affluenti con edizioni Ensemble. Bene, bene, molto bene. Allora, Edoardo, il mio ti inviterei, non ti chiamo più per cognome, promesso, ma ti inviterei a fare te, se sei d'accordo, la prima domanda ai nostri autori ospiti di oggi. Sì, e come un po' penso si sia sentito anche alle letture di Barbara e di Alessandro, sono libri Un confine in comune e L'amore segreto, che hanno, dove ricorrono insomma varie tematiche sociali, no? Che hanno appunto dei testi anche con una forte caratura e con un forte impatto da un punto di vista sociale. Le tematiche chiaramente sono molte in entrambe le raccolte, anche da questo punto di vista, e non solo, perché poi ci sono poesie e testi che riguardano più tematiche esistenziali o legate magari appunto ai percorsi e alle vicende anche biografiche degli autori stessi. E però, per esempio, per quanto riguarda Un confine in comune di Barbara Pumosel, uno dei temi che ricorrono più volte all'interno della raccolta è proprio quello appunto del confine, no? Come un po' suggerisce il titolo stesso, e in particolare credo il tema della messa in discussione in qualche modo dell'idea e della pratica stessa del confine, inteso tanto come confine fisico quanto come confine culturale, linguistico o mentale, no? In qualche modo. E quindi è come si è approcciata a questo tema e alla tematica del confine, della sua messa in discussione, e per quale motivo questa tematica riveste in qualche modo un ruolo, diciamo così, ha una parte importante all'interno della sua poetica e di questo libro che poi andremo appunto a pubblicare. E anche mi incuriosiva un po' sapere da Barbara come lei sente questo nuovo libro, Un confine in comune, all'interno del suo percorso come autrice. Domanda lunga e complessa, spero di ricordarmi tutto. Per cominciare, un confine comune è semplicemente un pezzo, per dire così, diverso di una poesia all'interno di questa raccolta. Io da Mancina Corretta ho sempre avuto un grande bisogno di simmetria, e questo titolo praticamente è anche un dire doppio a destra e a sinistra, no? Perché abbiamo con e poi un ine in une, tautologia perché confine è già, no? Il confine non è la frontiera, non è la dogana per forza, il confine è anche la pelle tra me e il mondo. E questo dire doppio perché già confine contiene in sé questo in comune. Poi naturalmente ci sono. La zona di confine è sempre una zona molto interessante, anche per quanto riguarda le lingue. E se pensiamo alle zone di confine dell'Italia, dove ci sono anche in Italia varie lingue di minoranze, una anche non riconosciuta come quella dei Rom, anche in Francia ci abbiamo tantissime cose. E così in molti paesi, poi chi vive in più realtà linguistiche, e succede soprattutto in certe situazioni che uno stia un po' con un piede di qua, un piede di là, e vede, e sente, e soffre per gli stereotipi, per i cliché che si sentono da una parte e dall'altra. Sempre rivolto a chi sta dall'altra parte del confine. Insomma, è un tema dove si potrebbe scavare a lungo e anche attraverso la storia. Ora, quelle ultime cose che riguardano il confine sono piuttosto tragiche, perché i confini in Europa si sono spostati si sono allargate, però il filo spinato è ben presente e aumenta. Bene, e nel mio contesto, nel mio percorso, non so, e sono poesie che sono cresciuti, nati, che ho limate per una decina di anni. È semplicemente il punto di una specie di punto di arrivo in questo momento, direi. Poi ci rifletterò sopra ancora, vediamo se ho risposto, non lo so, Edo. Ci sarebbe da dire ancora tanto. Ah, hai risposto molto molto bene in modo molto esaustivo, Barbara, anzi grazie, perché penso che hai toccato una serie di tematiche, già aperto una serie di temi che sono importanti, insomma, e penso anche molto attuali, non meno, anzi forse ancora di più, alla luce di quello che è accaduto in questi mesi e di cui poi parleremo fra poco. E sì, fra l'altro alcuni aspetti che hai citato io stesso ancora, diciamo così, non, li dovevo scoprire, no? In qualche modo, cioè, è un viaggio anche per me che sto lavorando insieme anche su questo libro, e scoprire appunto le varie stanze, no? I vari aspetti in qualche modo di quest'opera, e anche quello che hai detto su cosa può essere il confine, no? E mi è sembrato insomma, molto interessante quando hai detto a un certo punto anche che il confine è anche, diciamo, la mia stessa pelle, no? In qualche modo comunque quello che più o meno mi separa dal mondo che mi circonda, e quindi direi che ricollegandomi, riallacciandomi anche a quello che hai detto nella tua risposta, Barbara, andrei subito a chiedere ad Alessandro alcuni aspetti appunto che riguardano le tematiche sociali che invece si incontrano all'interno del suo libro, che è appunto L'amore segreto, e dove ricorrono appunto poesie che parlano in qualche modo, per esempio, della vicenda dei migranti, di varie vicende legate alle guerre che purtroppo tuttora ci sono nel mondo, fino a poesie che in qualche modo vanno a impostare una critica a una società, diciamo, di tipo capitalistico, o una società legata appunto al culto dei consumi, no? diciamo così. E a tutto questo, a queste varie tematiche sociali, e non solo, che poi molto spesso sono anche tematiche esistenziali, anche nel libro di Alessandro, a tutto questo si intreccia continuamente, sembra fare da sfondo in qualche modo continuamente, questo, proverei a definirlo così, questo anelito poetico a un amore segreto che sembra quasi essere appunto come un non detto, come un non dicibile, come qualcosa che la parola non può dire in qualche modo, non può pronunciare, e di cui forse la parola poetica prova a farsi interprete, no? Per come possibile. E la ricerca di questo amore segreto a me è sembrato in alcuni passaggi soprattutto che rimandasse quasi alla ricerca di una possibile radice universale, no? Di un qualcosa che come possibile radice universale ci accomuni in quanto esseri umani e ci faccia superare appunto tutti quei confini di cui parlava anche Barbara, sia che siano confini fisici, sia che siano confini culturali, linguistici o mentali. E questo libro, L'amore segreto, di Alessandro Scarpellini, fra l'altro avrà una prefazione di Alessio Lega, che è un cantautore che molti sicuramente conoscono, con cui Alessandro ha anche collaborato, poi parleremo anche di alcuni progetti di poesia e musica che Alessandro porta avanti. Nella sua prefazione, Alessio Lega a un certo punto scrive: Alessandro sa che, pur senza abbassare pretese, armi e ideali, possiamo contare solo sull'amore per innescare la rivoluzione nella nostra vita e, chissà, un giorno nel mondo. Volevo chiederti, Alessandro, quanto senti tu e quanto ti riconosci in queste parole di Alessio Lega. Alessio mi conosce bene, molto bene, è un'amicizia che dura da anni per ragioni musicali, poetiche e di idee. Alessio Lega sa che per me l'amore non ha confini, non è l'amore cristiano buonista, ma amore in tutti i sensi e in ogni direzione. Quello che hai detto te è vero, ha una radice universale. La radice sta nascosta nella terra. Gli antichi alchimisti facevano riferimento all'irri che è nella croce del Cristo. Diciamo, decrittandolo in altra maniera, dicevano: ignes natura renovatur integra. Il fuoco dell'amore rinnoverà ogni cosa della vita. Questo mio amore segreto è l'amore per i corpi, per i sorrisi, per la giustizia sociale ed economica, per la bellezza, per la coscienza e per la conoscenza, che sono spesso oppresse ovunque. Non è solo un amore privato, anche se ha necessità dei suoi spazi intimi e inviolabili, ma è altro, una canzone degli anarchici a cui io sono molto legato, una canzone di Pietro Gori, diceva: nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cor mi sta. È questo l'amore segreto. Non si può confinare l'amore solo nel sentimento, né una famiglia, né un nucleo, né una forma, né una morale, né una ideologia. L'amore segreto è una sorgente che scorre in me e bagna le mie idee, le mie parole, i miei sensi, i miei pensieri, i miei sguardi, anche i miei sbagli, le mie utopie e le realtà che vedo. È un qualcosa di totale, di universale, che per differenti ragioni di parte o moralismi o ideologie, spesso l'amore viene limitato, nazionalizzato, classificato. È segreto, questo sì. È un po' come un papavero rosso col suo cuore nero che nasce fra l'erba alta di molte realtà. Per me l'amore segreto è un principio continuo di ribellione ad ogni potere che vuole omologare, spiegare, ordinare, censurare, limitare, reprimere. Quindi quello che dice Alessio Lega lo ritrovo fortemente nei miei versi e spero che questo amore si diffonda animi sensi, animi corpi e porti a una ribellione per un altro mondo qui ed ora. E grazie Alessandro anche per questa tua risposta. Io, se siete d'accordo, vi inviterei adesso a fare una nuova lettura, un'altra lettura inedita dalle vostre prossime poesie, cioè dalla vostra prossima pubblicazione. Magari teniamo l'ordine, iniziamo con Barbara, se siete d'accordo, e poi vi domando qualcosa anch'io. Eccomi, comincio allora. Sì. Solo i propri morti contano. Cinque parole lapidarie che aderiscono alla retina, mentre distratta una mano gira le pagine. Una semplice constatazione scritta da chi a lungo ha osservato i vivi. Consapevolezza e condanna per un altro che non può leggere il giornale, ma non ne ha bisogno per sapere che anche da morto non sarà di nessuno. Questa era Barbara Pumhäusel e Alessandro Scarpellini. La boutique di Cristo. La fame sfinisce, la vita quotidiana ferisce. Divampa la guerra nelle stazioni e nelle vie, lontane dalle dimore dei signori. Poveri rubano a poveri e vendono eroina gialla, segatura di false stelle a 2 euro o poco più, a chi vuole strafarsi in buchi, luccichi d'assenza. Ovunque si macella, macera carne umana, Siria, Libia, Messico, Palestina, Pamela fatta a pezzi dal maschio desiderio di possedere, scarpette rosse sanguinano ovunque. Barricare i porti, infibulare le giovinette, serrare le case, acido sulle adultere. Barricche per i padroni, per gli sfruttatori, che ridono affari e bevono vino, vini pregiati. E la paura fa chiudere cuori, li lega a mugolii d'odio e socialismi nazionali. Grazie anche a te Alessandro per questa lettura. Adesso vorrei fare a entrambi una domanda che prova a venire un po', a entrare un po' nel merito proprio della vostra poetica. Quindi innanzitutto vorrei domandare a Barbara, della quale ho avuto il piacere, oltre che di ascoltare adesso con voi ascoltatori in diretta, di leggere anche nei giorni scorsi in anteprima alcune poesie. Vorrei domandarle, a partire dalla considerazione che hanno dei ritmi questi tuoi versi, Barbara, molto, molto intensi. Hanno una ritmica, direi, serrata, c'è poca spaziatura nei versi, fra le strofe, quasi assente la punteggiatura, nonostante sentirtele leggere, invece poi la dai una diversa cadenza, però appunto il ritmo di scrittura è estremamente serrato, lo trovo. E ti vorrei domandare se ho interpretato bene, a cosa è dovuta questa tua particolare scelta stilistica, e anche se ci sono delle influenze che magari vengono dalla tua lingua madre, ovvero il tedesco. Grazie per questa domanda, Mario. Sì, mi è venuto subito in mente una parola che aveva detto Edoardo una volta leggendo, cioè ha parlato di centrifuga. E io la centrifuga la metto in collegamento così visualmente con la spirale. E la spirale per me era sempre un disegno che mi ha attirato molto, è un simbolo antico, ma per me era anche un oggetto di incubi molto, molto forti da bambina, da adolescente, perché in questi incubi l'inizio della spirale cercava di congiungersi con la fine, che naturalmente in una spirale è impossibile. Poi, certo, questo è un po' da questo viene questo ritmo, forse, non lo so, ma anche da un sostare, interrompersi, quando le cose da dire forse non sono per niente armoniche, quando si parla di certe cose, quando il verso va in salita e a un certo punto, appunto per una mancanza, per qualcosa che stona, che deve stonare, e va detto in questo modo, è quasi come uno dovesse prendere una rincorsa, no? E in questa, e allora il verso, io lo spezzo dove forse il lettore o chi ascolta non se lo aspetta, ma questo crea anche uno spazio vuoto, uno spazio bianco che permette a chi legge di sostare anche lui e di crearsi un'immagine mentale che si aggiunge alle immagini volute, alle immagini che sono già contenute, no? In qualche modo permette a chi legge di partecipare. Spesso è questa riprendere, e non so fino a che punto possa venire dal tedesco, credo di no. Ho imparato moltissime poesie, anzi era una mia passione da giovane imparare poesia a memoria, e sicuramente c'è tanto bagaglio, no, di suoni, di ritmi, però questo credo è una cosa, può darsi che sia più nell'immagine, no? Non saprei dire da me quanto, sicuramente sono stato molto influenzato dalle mie letture giovanili e anche quelle fatte dopo. Bene, grazie. Grazie. Mi è sembrata molto chiara e anche molto consapevole questa risposta. Ti ringrazio, Barbara. Ad Alessandro invece vorrei domandare, siccome come lo ha già ricordato prima Edoardo, ma abbiamo avuto anche modo di parlare direttamente nei giorni scorsi, e so che prima della chiusura, prima del lockdown, portavi avanti diversi lavori di poesia e musica con musicisti della scena jazz o progressive. E testi tratti dalle tue poesie ed anche dal prossimo L'amore segreto. Perciò ti vorrei domandare quanto è importante la musica nel tuo lavoro e anche quando pensi che potranno ripartire questi progetti. Allora, la musica è importantissima. Spesso io scrivo ascoltando musica. Infatti, nell'Amore Segreto ci sono alcune poesie che hanno il titolo di alcune canzoni di Peter Emmill, che è ancora il cantante dei Van der Graaf Generator e anche come solista è validissimo, e l'ho visto l'ultima volta a Cracovia suonare nel marzo 2019. Quindi la musica è in sottofondo ai miei versi, anche perché ho avuto un grande maestro e amico, che è uno chansonnier francese che non c'è più dal 93, che è Léo Ferré, che ho avuto la fortuna brevemente di frequentare. Quindi tante volte i miei versi nascono da melodie musicali sentite, e il lavoro con i musicisti doveva ora esordire uno spettacolo con Massimo Cappellini, violinista, e anche chitarrista. Jazz, progressive, ha suonato anche in gruppi del folk irlandese, uno spettacolo che si chiamava Sentieri, perché i loro stimoli musicali attivano la mia mente, attivano i miei sensi, mi portano in territori che se no non percorrerei. E un altro spettacolo doveva partire con Giacomo Innocenti al sax, al flauto, oboe, clarinetto, insieme fra l'altro a suoi quadri animati, ad immagini. Per me la musica è essenziale, anche perché nei testi poetici c'è la musica del silenzio. Di cui infatti ci ha parlato anche Barbara a proposito della spezzatura dei versi. E sempre a proposito di musica, Alessandro, lo dicevamo prima quando abbiamo trasmesso la canzone scelta da Barbara, abbiamo chiesto anche a te di portare una canzone da fare ascoltare durante questa puntata. Quale hai scelto? Io avevo scelto Chissà, che è una canzone di Leprest, che è un cantautore belga, ma che Alessio Lega ha incluso in uno dei suoi album, e c'è anche una ragione, un motivo, perché appunto è l'amore segreto che in qualche modo è dentro la gente e non viene fuori. Queste possibilità che vengono negate alle persone. Io fra l'altro ho fatto l'educatore, ho lavorato molto col movimento di cooperazione educativa, con l'MCE, con Paul Leboeck, bretone linguista. Ho lavorato in situazioni di margine, comunità di tossicodipendenza, alcolismo, centri di igiene mentale con malati d'Alzheimer. E allora questo chissà, e chissà se dentro di loro non c'è questa poesia della vita, quest'amore segreto che io cerco, desidero, bramo e vorrei che cambiasse e rivoluzionasse il mondo. E allora ascoltiamola, Chissà, di Alain Leprest, interpretata da Alessio Lega. Via. Chissà, è Giuseppe Verdi quello che tamburella coi pugni sui coperchi della sua bancarella. Non lo sapremo mai. La via dei genitori col camion fa i mercati, non i conservatori. Chissà se Anna Magnani, la ragazzina in pianto che conta i suoi peccati con un ragazzo accanto. Non lo sapremo mai. Ben presto avrà uno straccio per non stracciarsi il cuore, nel petto un po' di ghiaccio. Chissà se poi è De André, l'ubriaco che fischietta al cesso in discoteca mentre i compagni han fretta. Non lo sapremo mai. Nella sua compagnia si va spesso a ballare, non si fa mai poesia. Chissà se poi è Van Gogh che graffitta sul muro qui di sotto con la sua bomboletta. Non lo sapremo mai. Ha già un posto sicuro e il sindaco farà sbiancare anche quel muro. Chissà se Che Guevara, quello che volantina davanti alla sua scuola nel freddo ogni mattina. Non lo sapremo mai. Ci appreme la famiglia che dia una mano al bar, fottuta la guerriglia. Chissà se poi è Gesù, quello che hanno beccato mentre stava rubando in un supermercato. Non lo sapremo mai. Povere foglie morte per un Dio di successo. Milioni fan da corte. Ed eccoci di nuovo, siamo con Alessandro Scarpellini e Barbara Pumeusel. Prima della fine della trasmissione, Barbara, lo imparerò a pronunciare bene, abbi pazienza, è il tuo cognome. Dunque, Edoardo, sei sempre con noi? Ci sei? Eccomi. ti lascerei, se sei d'accordo, volentieri parola per la prossima domanda da fare ai nostri ospiti. Sì, beh, in qualche modo penso che sia anche una domanda inevitabile, no? Visto la situazione in cui siamo e quello che è accaduto e quello che sta accadendo. E i libri, tanto il libro di Barbara quanto quello di Alessandro, secondo me sono forse ancora più attuali in questo momento alla luce di quello che è successo riguardo all'epidemia, appunto, di Covid-19, a tutto quello che è stato il lockdown e a tutte quelle che sono e saranno le conseguenze, forse anche più o meno di lungo periodo, no? Che ci potranno essere da un punto di vista sociale, politico, e quindi in qualche modo anche per quello che è e sarà il mondo della cultura nei prossimi mesi e chissà nei prossimi anni. Però appunto io penso che i loro libri sono forse ancora più attuali alla luce di tutto quello che è accaduto, proprio perché in qualche modo avevano, diciamo così, gli anticorpi, no? Forse nelle loro stesse poetiche c'erano già degli anticorpi che potevano presagire o quantomeno aspettarsi, no? Che potesse accadere quello che poi è accaduto, o qualcosa come quello che poi purtroppo è accaduto. E quindi volevo chiedere appunto sia a Barbara che ad Alessandro come sentono, come percepiscono questi loro lavori in uscita in questo momento, anche alla luce di quello che è accaduto e della fase storica che in qualche modo si aprirà, e se sentono una connessione, no? Un collegamento fra la loro ricerca poetica e quello che sta accadendo nel mondo attuale. E ad Alessandro mi verrebbe da chiedere anche quali sono secondo te un po' le sfide, no? Di questo amore segreto oggi in un mondo, in un presente, in un futuro che sembrano sempre più fatti di distanziamento sociale e di spostamento delle relazioni umane su un piano digitale, quindi in un mondo in cui si va un po' perdendo una fisicità, no? Quella fisicità, quei corpi di cui tu stesso, Ale, parlavi, anche quando parlavi appunto di cos'è per te questo amore segreto. Ovviamente la domanda è rivolta ad entrambi, appunto, e quali nuove sfide, ecco, per la vostra poesia, per la vostra poetica, in questo presente e in questo futuro che a quanto pare ci aspetta. Se vuoi rispondo prima io. Sì, senza problemi. Allora, questa situazione mi preoccupa. Io, ai famosi cartelli e lenzuoli tutto andrà bene, non ci credo molto. Non mi entusiasmano le relazioni umane spostate su un piano digitale. E mi preoccupa la distanza sociale, non poter abbracciare, toccare, sentire, odorare. Mi manca qualcosa. E poi aumentano le diseguaglianze, si aggravano situazioni già precarie. Vedo tanta gente soffrire per questa situazione. E poi vedo anche un'area di dell'azione, di controllo, quasi fossimo in una guerra che potrebbe continuare anche per altre ragioni, anche se per il bene comune, che porta un coprifuoco emozionale e sensoriale. Le sensazioni, il baciare, l'abbracciare, il sentire, fa parte della poesia, fa parte della vita, fa parte anche di questo mio libro che è L'amore segreto. Sri Aurobindo, che era un poeta indiano, autore di Savitri, diceva una cosa, e con questa concludo. L'uomo è un gradino dell'evoluzione. Se non sarà capace di superarsi, sarà superato. Wow! Barbara! Ascoltiamo anche il tuo punto di vista. Eccomi. Allora, io, non essendo una giornalista, ancora, a parte qualche testo grottesco o assurdo, non ho scritto niente su questa fase appena passata. perché io ho bisogno di metabolizzare piano, elaborare, scavare, far decantare prima di scrivere qualcosa. Ma sicuramente la cesura si percepisce, ma ci viene anche imposta vederla, cioè proprio ce l'abbiamo sempre davanti, ci va, anche per farci sembrare, per farci credere che fosse normale quello che accadeva prima e che non lo era per niente. Certo, oramai le disuguaglianze, anche se qualcuno diceva, ho sentito dire a qualcuno che il coronavirus livella tutti, sono tutti nella stessa situazione, non è vero per niente. E comunque basta spostare il punto di vista, no? E per noi, visto che per chi guarda la televisione, ma anche per chi non la guarda, ti salta addosso da tutte le parti quel fatto che si parlava soltanto di questo, mentre succedevano tantissime altre cose. E spostando il punto di vista, basta pensare a, tra virgolette, clandestino, a quel clandestino che viene sfruttato nei campi e poi va a dormire in una baracca dove piove dentro, non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è medicine, non c'è possibilità di lavarsi le mani, e per lui il Covid è solo uno dei tanti problemi, ma sicuramente non il primo, no? Ora mi viene in mente una cosa che proprio per salti di pensiero, che io salto molto, ma solo con la testa. Mi viene in mente una frase di un libro, due versi in rima di Stefano Benni, che ha fatto, credo sia stato un libro nemmeno in vendita, è stato regalato in certe occasioni, una specie di appiccidario sia per adulti che per bambini, e alla L c'erano queste due righe che so a memoria, ho anche il libro ma non lo trovo. Il lupo ulula a più non posso, la sua versione di Cappuccetto Rosso, cioè noi siamo dentro in questo, però basta fare questo salto, guardare con gli occhi di qualcun altro, camminare con le scarpe di qualcun altro e la situazione cambia del tutto. Poi, naturalmente, la connessione c'è. Anche fra la mia, se chiamiamolo così un po' altisonante, la mia ricerca poetica e quello che sta accadendo, ma semplicemente perché io avvertivo la situazione di prima, cioè come grottesco, molto assurda, e anche perché sono fermamente convinta che tutto è connesso. Ce lo dice qualche filosofo orientale di 5.000 anni fa, ma anche i greci, i latini, e addirittura c'è un saluto che io purtroppo non vi posso dire in originale, dei Dakota, ora torniamo ai nativi americani, che quel saluto semplicemente dice tutto è connesso, tutto è collegato, ed è così, per quello non funziona mai quando parliamo una volta della disoccupazione, un'altra volta delle donne, un'altra volta ancora dell'ambiente, perché sono per esempio tre, che ora ci fa caso, tre cose diverse ma connesse, di cui va parlato nello stesso momento, fenomeni che vanno affrontati insieme. Ecco, e qui forse c'è un approccio che andrebbe cambiato. E qui mi fermo. Di nuovo grazie per le vostre risposte e anche per le splendide citazioni che ci avete portato. Io vi inviterei subito a fare un'altra lettura dei vostri inediti, se siete d'accordo, anche perché ci avviamo verso la fine del programma, e poi un'ultima domanda che vorrei ancora farvi. Però intanto una lettura, ancora un po' di poesia da parte vostra. Può iniziare chi vuole, nessuna preferenza, insomma. Allora comincio io ora per giusto per Sì? annodarmi, per connettermi a quello che, anche se la poesia fa di nuovo un saltello, va un po' da un'altra parte. Questi missili sono in grado di colpire in modo affidabile, dice una voce esperta, con la sicurezza dell'esperto, un timbro che ci colpisce dall'alto in basso, che mira a non far capire, a comunicarci soltanto che siamo in buone mani, che ci sono loro, quelli dal tono grave, dalle parole appuntite, che sfiorano la buccia ma non fanno vedere il nocciolo. Anch'io mi fermo prima, non oso mettere a fuoco lo sguardo sulle vittime. Mi paralizza quel vago senso di compassione per la parola affidabile. Amare. A volte mi insegue il dolore per un colpo imprevisto di sole, quando mi sveglio e sogno cigni che volano oltre l'orizzonte. Allora, come l'alba solitaria del monte, declino e scivolo nel nulla creatore che è lo smarrimento o l'amore. So di essere un fiore dal polline segreto, avvelenato da una malinconia che chiamo sete di te, o poesia, odoro di fiume e cerco il mare. E allora ancora grazie per queste due nuove letture. Io le devo, sono davvero sincero dicendo che le trovo poesie bellissime quelle che ci avete portato. E allora vorrei andare veloce sull'ultima domanda nella speranza di avere tempo per farvi fare un'ultima lettura ancora prima poi dei saluti. E allora vi vorrei rapidamente domandare quest'ultimo aspetto, insomma, all'inizio della puntata abbiamo fatto ascoltare le voci dei nostri ascoltatori che ci hanno mandato le loro selezioni di libri prediletti e circa la stessa cosa vorrei domandare a voi, ma non solo, insomma, oltre magari a una breve selezione di alcuni libri da voi adorati in senso lato, in generale, vi vorrei anche chiedere magari quali autori e quali opere in particolare hanno influenzato i vostri lavori, un confine in comune e l'amore segreto, ma anche direi in senso più ampio il vostro percorso come autori. Quindi vi vorrei fare questa ultima domanda a entrambi. Prego. Rispondo io? Allora, le mie influenze sono tantissime, ma così mi viene da creare questa costellazione. Magari mancheranno altri astri delle mie influenze, altre sorgenti. García Lorca, sicuramente Pessoa, Caproni, i poeti lirici greci, ma anche gli zen giapponesi, Léo Ferré, poeta e chansonnier, Sandro Penna e sicuramente Borges. Per quanto riguarda i cinque libri che consiglierei, domanda sempre difficilissima, inizio con un autore molto discusso, Céline, Viaggio al termine della notte. Poi consiglierei Alvaro Mutis, amatissimo da De André, quando parla del gabbiere, Ilona arriva dalla pioggia, la neve dell'ammiraglio, un bel morir. Sicuramente i racconti di Dino Buzzati, La neve era sporca di Simenon e 1984 di Orwell, e ne lascio tantissimi altri fuori. Per forza, immagino. E la stessa domanda io la rivolgerei a Barbara, se... Eccomi, anch'io cambio libri preferiti molto spesso, ce ne ho tantissimi, ho cominciato a leggere molto presto e ho letto tantissimo, ma sempre, ma leggo tutto, sono proprio una lettrice onnivora. E ora, a me spesso mi viene in mente un libro per bambini, che è essenziale come una di quelle poesie dove ogni parola sembra scolpita nella pietra e per quella le parole sono poche, ed è Il piccolo blu e il piccolo giallo di Leo Leoni, che forse conoscete. L'autore sembra un nome italiano, ma era di origini olandesi, nato a Amsterdam, mi sembra, e inglesi, però da origine ebraica, con tutta una strada lunga di paesi diversi. È tornato in Italia prima del fascismo a studiare e ha dovuto scappare di nuovo. I suoi protagonisti sono, tra virgolette, astratti, perché strappati con la tecnica del collage. Allora, per un periodo era considerato un libro soprattutto sul razzismo, perché i protagonisti sul colore della pelle erano gialli e rossi. Ultimamente è stato vietato nelle scuole nel Veneto, messo su un indice, perché questi tondi astratti, o più lunghi o più tondi, non si vedeva bene se questi genitori del piccolo blu e del piccolo giallo erano maschi o femmine, o magari due maschi e due femmine, sicché assurdamente considerato come uno di quelli cosiddetti, sembra quasi una parolaccia, libri gender. E ora mi sono prolungata troppo, ma amo veramente il piccolo blu e il piccolo giallo. E poi tutti i libri di Napolitkovskaya, che è stata uccisa. Ora sono più di 10 anni, mi sembra, nel 2006, il giorno del compleanno di Putin, giornalista molto impegnata che scriveva veramente senza autocensurarsi quello che pensava era ed è pericoloso. Poi è Marina Tsvetaeva, e qui c'è una connessione che non avevo nemmeno cercata. La Politkovskaya ha scritto la sua tesi di laurea su Marina Tsvetaeva. E anche io qui mi sono annotato i deserti luoghi, che sono le sue lettere degli ultimi anni, fino al suo suicidio. E poi avrei ancora, visto che il mio libro viene pubblicato dalla casa editrice Ensemble, mi veniva in mente spontaneo un libro pubblicato dove, da Ensemble, con un bellissimo verso come titolo Piccoli buchi nel silenzio, di Hone Tuver, o Tuvare, che è un poeta maori che Edoardo lo sa molto bene. E insieme a quello vorrei citare un'altra poeta, sempre, scusatemi, questa volta è andato così, nativa americana, in origine, cioè a metà Creek e a metà Cheyenne, che è stata un anno, 2 anni fa a Firenze, dopo un premio molto importante per la poesia. Il suo libro si chiama Un delta nella pelle, e lei Joy Harrio. Ecco, e poi tantissimi altri, Cortasa, eccetera. Ma mi fermo, credo sia. Sono molto belle queste risposte, davvero vi ringrazio. Nel frattempo che vi ascoltavo, ho anche scritto a Pinke, che è la conduttrice della trasmissione che inizia dopo, e ho domandato di allungarci 5 minuti in chiusura della puntata di oggi, così da avere il tempo per farvi leggere ancora una poesia a testa, se siete d'accordo, prima dei saluti. Vuoi magari iniziare tu, Barbara, che stavi parlando di Firenze e so che l'ultima poesia. Sì, perfetto, ecco. Allora a questo punto leggo Firenze. Parcheggio e spengo i fari. Sopra le case ristagna il solito buio sporco. non vedo gli uccelli migratori, tacciano l'orizzonte per le troppe onde, per i flash e fulmini pubblicitari. Il platano dice: esci di giorno, non privare la pelle della fotosintesi. E Dante era già lontano quando scrisse del cadere e salire delle stelle. Qui all'angolo con via 100 stelle è nata Margherita Hack, e in collina all'altra parte del fiume studiavano da sempre gli astri, senza quegli intralci luminosi di oggi. Noi siamo abituate al firmamento disastrato, al nostro disastro interno, e lo neghiamo, speriamo che si faccia cielo all'improvviso, e l'Arno è qui, vicino, e ci acquieta. Io leggo l'esergo del libro L'amore segreto, e poi la fine, sono brevissimi versi, perché L'amore segreto è nata da una poesia scritta in un altro libro che riporto proprio all'inizio dell'amore segreto. Ognuno nasconde in sé una ferita, alcuni nel corpo, altri nel cuore. Il sangue ha il sapore del sale. E poi l'ultima poesia della raccolta, che si intitola appunto L'amore segreto. Ancora, ancora, io viaggio fra il sasso spaccato e la vena d'acqua sorgiva, che è il piacere di esistere. Ed eccoci ancora qui per i saluti. Edo, beh, che puntata, eh? Che poesie, che autori. Eh sì, decisamente, veramente bravissimi Alessandro, Barbara, tanto le letture quanto le risposte, veramente ci avete emozionato. Tra l'altro avete citato anche alcune cose, non abbiamo molto tempo, magari le riprendiamo anche di quello che diceva Barbara, dei libri che consigliava, di Connie Tufari e della poetessa nativa americana. Poi magari avremo modo di accennare anche nelle prossime puntate, perché rimandano anche a altre e future pubblicazioni che ci saranno, sia per Affluenti che per Edizioni Ensemble. E sì, bravissimi, veramente grazie. Grazie davvero, è stata una bellissima puntata. Sì, grazie anche da parte mia di essere stati fatti oggi con noi, e davvero non vedo l'ora di averli fra le mani per intero questi libri. Intanto però è stato un piacere avere la vostra voce qui con noi oggi. Grazie Barbara, grazie Alessandro. Grazie Mario, grazie Edo, grazie per l'invito, e grazie anche agli ascoltatori e ascoltatrici per la pazienza e il tempo. Un abbraccio a Barbara, a Edo, a Mario, a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao Alessandro. E salutiamo anche ciao noi. Ciao a tutti. E salutiamo anche noi gli ascoltatori, che anche oggi erano davvero tanti, e beh, ci credo davvero. Noi sicuramente ci risentiamo domenica prossima con la nuova puntata di Poi You It, di nuovo con Edoardo Olmi fra un paio di settimane, invece, perché andiamo avanti con la collana di Affluenti, ma beh, avremo modo senz'altro di riparlarne. Edoardo, un saluto anche da parte tua. Grazie a voi veramente anche per avermi ospitato, per averci ospitato anche in questa seconda puntata, e come dicevi anche tu Mario, il 7 e il 14 giugno, se non sbaglio, saremo di nuovo in onda, in diretta, qua su Radio Wombat e a Poiut, Lettere Contrarie, con alcuni autori della seconda antologia di Affluenti, che è essa stessa in uscita nei prossimi mesi, appena sarà possibile. E è un'antologia che avrà la bellezza di 30 poeti e poete, e avremo il piacere di ascoltarne, credo, fra le due puntate, forse una quindicina in tutto, vediamo come poi ci suddivideremo, però appunto il 7 e il 14 giugno, doppia puntata di Poiut con i poeti e le poete della seconda antologia di Affluenti, nuova poesia fiorentina.